lì. Ma che faccende? Ma faccio una faccende? Che faccende? Ehi! Alza bala! Giovanni! Alza bala! La torta ho fatto, Giovanni! La torta ho fatto, Giovanni! La torta! Ehi, la torta ho fatto, Giovanni! Buonami! Aspetta il torta, Giovanni! Ma niente, so, grazie di bagnava! La giovanna da parte di voi, fa Gio Maria, adesso la ricompenso! Il tuo padre ti fa trimare che fa un diabete alto! Giovanni! Ehi, è bella! Giovanni, dormito c'è! Giovanni! Dormito sono! Ebbè, Giovanni! Ehi, allora, mi senti? Forte e chiasso! Ecco, lo gommino sono dall'altra parte e arrivo ugualmente, meglio così. E se facendo, mi sta facendo anche TV hai? Sempre in camera da letto. TV hai, vai. No, tu, quando parli tu fai TV hai. E dove hai letto? Passi come mi l'ha detto. È proprio questo, non le faccio guai, sto scherzando, dai. lo so, no, ti ascolto benissimo, avuto, sono secchiato. Meglio così, dai, meglio così. Senti, serve qualcuno di questi qua? Sì, Gio Maria, adesso me li porto, sto giù Gizzu, adesso me li porto, lo va a collezione. Io mi stavo aspettando che raffreddi un po' la torta, così l'assaggio, se ci sta buono. Infatti, abbiamo questi anche troppo, dai. No, ne ho uno in più e lo sto dando, dai. Cioè Mario, sai che il mio è nuovo. L'unico problema è che c'era l'antenna che mi era caduto, e si era piegata l'antenna, infatti me l'ha dato una Luca di quelle piccoline che sono una supposta. Infatti sto usando quella l'antenna. E te la do io l'antenna che ce l'ho, la lunghezza, dai. Te la do io l'antenna, no? Per quell'apparecchio. Ah, ti dà tu Giovanni, ti può servire, tranquillo, no? Può sempre servire Giovanni, ma ti si rompe a te e poi te la devi comprare. Tienila, tranquillo, no? Ci mancherebbe. Oh, ce l'ho, capito? Siccome io, a me, io l'avevo preso con l'antenna, però me l'aveva comprato una torre squalo. Dice che era più lunghetta, ma cosa? Era matissi cose come quella che c'era, dell'originale, capito? Così che non ne ho due, cosa ne faccio dei due antenne di un apparecchio? Ma del Baofeng? Eia, te la regalo, cazzo, non ne faccio niente io. Aspetta che ti mando, ma ce l'hai WhatsApp, ti mando la foto. Vai, manda. Ti ho mandato la foto, aspetta che lo guardo. Oh Lu. Ce l'ho anch'io quella piccolina così ce l'ho anch'io. No, è l'altra più lunga, come l'originale, capito? No, ti ho mandato la foto per vedere se era per questa radio. Per quella va bene, anche per tutte le radio va bene quello lì, capito? Intanto i domani, vabbè, stavolta dormo qua, però io salgo presto a casa, tipo verso le 8:30, 9. O a meno che al rientro, verso mezzogiorno circa, mezzogiorno e mezza, a ripasso, se ha problemi, può farmi sapere quando posso passare. Tanto domani devo andare al mare. Fammelo squillo prima di venire lui, se che non ci sia. Se fa lo squillo io adesso la tolgo e la preparo, capito? Ehi, cosa ho sto fischio Giovanni? Come mai stai fischiando? Perché c'era solo tutti e due accesi, insomma. Ah, ecco. Ah, va, escono. Escono che è una meraviglia questa radio. Lo credo bene. Se sì. Ci trovo, non me ne faccio niente di due antenne, capito? Che ce l'ho in più, adesso vado e la prendo, vai. E a fare faccio, sono qua. Luca! Giovanni, pensa che quella non va bene lì. Quando non va bene? Aspetta. Ma non è l'originale di questa radio però. Beh, è adattata come tutte le altre, ma la metto in questo apparecchio che ho io ogni tanto, la mettevo, capito? Così che va bene. capito? Quella si affitta all'apparecchio, capito? Ah, va bene, dai, Gio Mario, andava bene, dai. Poi domani, domani ti chiamo. Passa, me la prendo. Dai, regalo, cosa stai facendo? Dai, regalo, capito? Tu passa domani e fammi lo scuro prima di passare, che la porto direttamente in magazzino, capito? Ehi, Gio Mario, non c'è problema. Ti chiamo prima. Ehi, ehi. D'accordo. Aspetta un attimino che sto mettendo la torta. Ehi, mi raccomando, Cos'è, torta di mele? Ehi, Giovanni, torta di mele. Ehi, non mangiartela tutta, lasci un poco, un pezzo a domani, Ebbene, mangiata te questa torta. Ehi, Giovanni. Mangiata te questa torta di mele. Luca. Oia. Oia.